Vai, vai, lui dice agli amici tuoi, hai capito? È vero. E a vero, lui? Cuomane. Vai, drogato. È vero. Ferma. Non ne muove, andiamo, che c'è? Andiamo, andiamo, che... Mi sono bacco con l'isarra di cazzo e mi mangiano della zinsera, bu. Non parli, eh? Non parli. Fruga. È vero. E a vero, lui? È sparito, sì, stavo chiamando, eh? Stavo facendo cosa? Stavo facendo cosa? Stai tirando, stavi, eh? Mi ti ho visto, eh? Ma cosa hai visto, tu? Ah, stavi, cos'è stato, la cannuccia o 5 euro? Perché tu cosa usi, 5 euro? No, io 500 lo uso. Perché tu sei ricco, cosa vuoi dire? Io sono super lusso. Io uso la cannuccia invece. Tu vai andare in paimia, ti grido. È vero. Adesso guarda questo video di un amico che ha la piscina, la villa di Labiu, che rimane andare a sorso. E sta bene qua. 12 euro tutto il giorno. Se vuoi mangiare lì, ovvio, paghi di più. Se no ti porti pranzo al sacco, panini, a bere e paghi 12 euro. Adesso quest'anno ci andiamo con Marina. Che bagaba. E in realtà se non mi diverti cavallo non mi diverti, non lo sicuro più. Ah, e io se poco ma sicuro. Purtroppo è così, se non mi diverti adesso, ma poi già si sta bene, poi il padrone è accogliente, su 5, via sì. La sua formula è rimasta invariata rispetto allo scorso anno e ci vuol dire che i nostri clienti hanno la possibilità di prenotare, ok, l'entry in piscina a solo 22 euro e ci vuol dire che in questo costo è inclusa l'entry con la pergola privata, il lettino a persona chiaramente stiamo parlando e un piatto di pasta a fronte di mare con cozza, vongola, gambero di un'entrata, un piatto di pasta e frutti di mare, entrata in piscina tutto il giorno, eh? 24 euro. Cazzo, un 12 euro mi rimango impossibile. Cazzo, un 24 euro mi rimango tutto di più, se siamo in due. E andiamo a Venezuela, sta lì. Bisogna andare a risparmio ogni anno. Bisogna andare a risparmio. Tu usa la cannuccia come faccio io? No, no, questa volta uso la roba a Sardegna, questa cannuccia costa. E allora, prego via. Dove andiamo? Che c'è che c'è da lì? Casino, e a me il PC bene sta girando. Eia. Meglio così. Ma c'è l'altra, la DDR 3 mi sa. E per quelli più avanzati, Emi, ne ho due di quelle DDR. Sì, quella me l'aveva dato mio cugino quando era all'autoparco, c'era questo PC fisso, me lo staccate da lì. Una mi pare, no, io due, forse non mi ricordo, forse due. Invece quelle della tastiera o del PC, di un PC che si era rotto. Che ragazza. Funzionano bene, le ha riconosciute tutto come le ho messe. Adesso quante ne hai? Quante RAM c'hai? 6 giga. Dal disco? Vanno veramente da cantè. E ce ne avevo al dischi da poter aggiungere. No, c'è una cosa, sta fischiando, che è avanti? Che è sta fischiando, avanti? Vabbè. Se gira bene così, faccia se gli metti l'SSD allora, come gira? Infatti. Solo che non lo so se... come fare per metterglielo l'SSD qua? Io avevo messo uno di quegli hard disk piccolini in un fisso, e girava bene. Se la non c'avevo quello grande, io l'ho sistemato. Io ho trovato un sistema, l'avevo bloccato con le fascette. A voglia, ma sta comprato la sta lì, si mette Windows 10, tanto tuttora avrei Windows 10 sotto, tanto con 6 giga di RAM a voglia, gira ancora meglio. No, se lo riconosce l'SSD, volevo è un casotto l'SSD mi qua, perché è vecchio il computer. Certo che lo riconosci, è sempre un hard disk. È un hard disk, non è meccanizzato, è allo stato solido. Sì, già lo so, però bisogna vedere se riesce a farlo funzionare alla sua massima potenza, mi. Capito? C'è la massima potenza, non ho capito. Siccome questo il computer è vecchio e l'SSD non lo so se, se riesce a farlo funzionare come si deve qua. Capito? Qua c'ha il, come si chiama, il setup di quelli vecchi. Ah, ecco, capito. Vabbè, non ti costa niente provarlo, tanto non è buono, sono soldi buttati, l'SSD serve. Io nel mio ce l'ho e va benissimo. Va benissimo, solo che domani dovrò mettere Windows 10, ma chissà che ne esca uno simile al 7, che sia l'11, il 12, boh, lo fanno così. Non so perché cambiano questi sistemi quando uno si abitua. A me Windows 10 non mi piace. Ma il mio sta andando sempre bene, questo Windows 10. Boh, forse male perché mi devo abituare un po' a conoscerlo meglio, capito? A me non piace, poi già dal fatto che devi pulire la password per accedere. No, si può togliere la password. Ma devi fare l'email. Non ho capito, la password si può togliere, c'è il modo di toglierla. Io l'ho tolta, accende da solo. C'è il modo, ci mette ad accendere? No, non ci mette molto né a accendere né a spegnere, proprio l'ampo. Allora, tu pensa se li metti l'SSD, secondo me funziona. Anche che il PC mio non è vecchio portatile. Ma bisogna vedere se riesce a farlo funzionare. Aspetta, non mi ricordo cosa bisogna mettere per l'SSD. Ma non mi rammento, l'avevo rigido, infatti non l'ho messo mai per quel motivo, perché questo è vecchio come computer. Non c'entra niente l'hard disk con il computer, non entra proprio nulla, capito, andata lì, non c'entra niente, come se magari secondo che processore li metti o non fa, perché è vecchio, ma la disco non c'entra niente, gli attacchi da 5 volte e poi il cavettino piccolo piccolo, quello la spinta piccola, fatto, si installa il sistema e si è a posto, vai tranquillo che funziona. Sì, proverò, proverò, e questo qui lo tengo vuoto, diciamo così. Scusa, non da blu vallo. Infatti, bisogna compararlo. Costa, ce ne sono tutti da vari prezzi. Guarda, ho visto, aspetta un attimino, allora, c'è, cioè, eBay, sono per 500 giga, sai che è da Samsung, allora, è un'offerta, SSD, 500, insomma, io per esempio il mio l'ho pagato intorno ai 70. E costa una cosa del genere. Solo che a buttare via 70 euro e da voi magari non funziona come dovrebbe. Capito, mi si rompono le scarpe. E troppo di rivendere, Natalia, voi la se lo vendi. E io lo so. Guarda, 70 euro costa. Samsung, allora HD solido SSD 500 giga Samsung 870 EVO 70 euro e prima ne costava più di 100. E infatti io ho tutti i vani SSD. Se vuoi spendere di meno c'è di meno, Natali, lo prendi da 250, capito, da 240, c'è 120, 240, 500, e poi c'è da 1 terabyte, da 2 tera, più va più costa. Io mi sarei comprato un carro armato. E io ho comprato un nuovo. Ho comprato un Samsung nuovo, io ho 50 euro, ma bello. Da Alcona l'ho preso in offerta, la 25. Ma cosa c'ha, l'SSD o la dischi meccanico? La batteria in pratica non la puoi togliere, c'ha quella, lo spillino, ci metti la scheda vento, poi c'ha di cosa della memoria. Però è bello, capito, è veramente bello come telefono. C'ha un'immagine allucinante per fare le foto. Scusate, mi devo portare il cane, me ne sono dimenticato, porca, ma qua è un Tadea Nokia qua. Un attimo, arrivo subito, riprendi tu la lì. Veramente noi stavamo parlando di computer, non di telefono. E vabbè, io ti ho detto del telefono, Samsung. E ce l'ho anch'io la 20 del Samsung. No, io ho preso la 25, 159. Dica. Poi il computer lo sai che io non li uso mai. L'ho dato a Stefano, ho detto vai e aggiornalo, fa quello che devi fare. Io ho detto poi quando ci vediamo. Tanto non lo uso quasi mai, ho detto. Allora me ne porto il computer. Andà bene, vedo, dai, rimango in ascolto io che sto facendo una cosa qui. Ci sentiamo alle prossime, Antonio. Salutami a Luca quando rientri. Eia, va bene. Ok, quando rientra già te lo saluto. Andiamo. Che è? Hola, vale, hola España, escucha Italia, rico. Hola, España, escucha Italia, por favor. Yeah. Beluca. Dove Pompo? Comandiamo. Tutto bene. Meglio così. Cosa vedo? Come si sattolo? Perché sto pompando. Adesso è staccato. Ti arrivi forte lo stesso. Questo è piccolino. Fuce già c'è il grande da una parte. L'altro già ho usato l'aria. L'altro da un sistema. E a 5. Addirittura. BV 2001 transistor è quello, cioè BV 2002 per esattezza, a transistor 5 finali, 24 volt. Non va bene, quanti watt da 300? Domani, 500 verrà. RMF422. Va bene. Ma valvole, sì, a transistor. A transistor, quella valvole ce l'ha accorso. Con il Benito, cioè che l'avevo dato a Benito io. Ce l'ha sistemando. Deve cambiare lì. Se l'ha cambiato pure, non lo so, il telefono in questi giorni adesso. Beh, se l'ha finito, così almeno glielo do a Benito e almeno se lo pietra a casa. Quella valvola è l'altra. Ma chi sono quelli che trasmettono il PMR? No, quelli che trasmettono il PMR sono dell'ospedale civile a Pronto Soccorso, invece quelli che sono sul canale 1 di LPD sono quelli che ti fanno il vaccino. Ah, si sentono adesso? Li ho visti, tutti abusivi, con i portati abusivi sono. LPD canale 1 e PMR canale 1, cioè canale 7 perché altro, capito? Sono tutti i giorni lì, sto parlando anche adesso, fino a, non so fino a che ora vaccino, mi sembra fino alle 6:30, una cosa del genere. Iniziamo da mezzogiorno e mezzo. Lo senti, e se quella te la ingomma? Figurati tu, arriva la bomba qua. Alfa Romeo, deve ritirare. LPD quello, è frequentare, boh. 433 075, canale 1. Ma c'è un po' in posta, aspetta. impostaglielo a 433-275, canale 1 LPD. 433-0-075. Tu ti assunti, cazzo va. Se avevi saputo cazzo me l'avrei fatto io con la volga. Pensare così, cazzo. Tutto roba di volontariato, cioè hanno assunto quelli del volontariato, capito, a fare quell'orario. C'hanno anche la... mangiano tranquillamente lento, ristorante, e anche tu vuoi ripetere la vita lucano. E invece canale 7 è 446-082. Canale 7 PMM 446-081.25. Questo è un elevatore internazionale, però non mi ricordo più la frequenza. E sono io. Mi sembra che avevo HF di internazionale, 4 e qualche cosa era, mi sembra, non me lo ricordo più neanche io. Che da Claudio sta l'internazionale. 431-237. Ciao Giulio, è vero, sì. 431-237.5. E anche, anche 37 va bene, poi in automatico esci. Ciao Giulio. Ciao Antonio. Arriva la bomba qua, quelli delle Covid. E già lo credo, la pedaliera dove sei tu, che ti auguro che venire a fianco. Ce l'hai a 200 metri di lavaria, né di più né di meno. E appunto, arrivano fortissimo. E va bene, lasciamoli lavorare. Ho già fatto un po' di goccoli e sugarosa in verde, buona, in piccante, di prezzemolo e pane grattato. Dove l'hai comprato, Luca? Che cosa? Che dove alcuni? Io li ho raccolti giù. Ah, li hai raccolti tu? Ah, vabbè, allora andare. Io di solito li compro lì a Pedaniede, c'è un negozio di frutta e verdura, Pedaniede Sud, no? E sono molto grosse, ma veramente belle. Sì, vabbè, quelli sono allevamento, non li possiamo paragonare a quelli raccolti in campagna. Sì, li mangio pure io quelli, li fa Padre di Marina, li fa ripieno. Ma sono buonissimi, guarda, sono veramente buoni, anche perché sì, sono da allevamento, è ovvio, questo sì, lo so. Oppure vado a Porto Torres, tante volte c'è uno di Usini, mi sembra, che li vende lo stesso, sempre anche lui, belli grandi, 7 euro mi sembra, 7,50, una cosa così, al chilo. Buono il prezzo. La voglia, alla grande. Qualche volta li ho comprati anche lì in via Pascoli, in quel quella frutta e verdura che c'è attaccata all'edicola, anche lì li vendono. Beh, sempre più o meno a quel prezzo stesso. Ci sono i sacchetti da un 2 kg, io di solito ne compro minimo sono 2 kg, 2 kg e mezzo che ne compro sempre. Come li cucini giù? Fai anche tu in forno? No, io me le faccio fare, come si dice, col pane grattugiato, col formaggio e col sugo, come si chiamano in quel modo lì. Ho capito, sì. Sì, come fa mio suocero? Ah, cacciatore. Mia Britella, e beh, per il re. Vabbè, cadere. Ah, cacciatore. Non lo so come si chiamano, non lo so, comunque a me piacciono di più così. Sì, sono buoni anche agli apprezzevano, questo sì, tutto quello che vuoi, però in quell'altro modo per me sono più buoni. Infatti mia moglie me le fa sempre così a me. E li ho mangiati anche l'altro giorno, già ce n'è quello Macron in campagna, voi, Macron, ci sono già le macchine. Buonasera a tutti comunque, mi stanno ascoltando, sono entrato a salutarvi, non è che mi trattengo molto. Ok, ciao Cla, ciao. No, stavo ascoltando i messaggi che si mandano, le varie cose, vigili che ci sono lì al cubo di Pedanieta. Li sento a bomba, li sento qua. No, non c'è niente, io non c'è stato niente, non mi interessa. Ma già arrivano bene. In LPD stanno trasmettendo. Canale 1 LPD 433-075. Attenzione che quelli sono autorizzati al Ministero, lo sapete, dell'LPD, sono frequenze secondarie, quindi sicuramente sono autorizzati al Ministero della della sanità a trasmettere lì, capito? Quindi state allerta. Va bene, dai, continuate, io continuo a fare quello che sto facendo, sto friggendo maresane. Ok, qua. Beh, certo che sì, ci mancherebbe altro, ci sembra che vado io a intrufolarmi nelle PD dove loro stanno lavorando, ma voi scherzate, no? Già lo uso un poco in PMR qualche volta quando sento qualcuno, ormai sono già 5-6 mesi che in PMR non c'è più nessuno, figurati se vado nelle PD, lasciamo perdere. Vabbè dai, avanti dunque, ci sei? Sì, sono qua. Sono qua, la seguisendi Cla, le bistelle. Sì, io sto friggendo le melanzane perché fa la parmigiana e quindi le sto preparando. Così riposano, capito? E poi domani a pranzo dovrei fare la parmigiana. Va bene, poi ogni tanto sto fuori a prendere una bocchetta d'aria e fare una sigaretta. Già va bene, KK, vabbè, Antonio Motopompa. Eia, qua sogno. Già lo vedo vicino, non ti preoccupare. Va bene, dai. Vi ascolto, al limite ci sentiamo più tardi se coincide. Ciao. E poi di quella volta si è busto. Bene, lui, benissimo, alla grande. 9 più 10 pieno qua, 9 più 10 pieno. Eia. No, è bello, l'antenna è sempre lì, non ho fatto niente, nessuna modifica. Non vi vedo, ma la zona è abbastanza alta, quindi sicuramente mi aiuta quello, ma non lo so se non lo vedo io da qua, capito? Va bene, no, arrivate bene tutti, è 9-10 anche tu, Giulio, 9 abbondante, Luca, non so se sei giù o sei a casa tua, Luca. No, giù, sta arrivando quasi a fondo scala qua, sei sul 3 praticamente, là. Allora, ti ho ascoltato da casa da giù, dalla tenoce e arrivi 9-5, 9 più 5, guarda che è un ottimo segnale per quell'antenna, un ottimo segnale veramente. Sono lontano da te io. Da casa tua mi arrivi sul più del 30. Sì, allucinante, ottimo segnale. Ottimo segnale. Antonello, vabbè, non fa testa, Antonello e Roberto sono sul 3, sono 9 più 30 pieno, tutti e due, lisci. Quando attacca Antonello è una cosa pazzesca, si nota un bel. Lontananza si nota un bel. A casa non me ne accorgevo, ma in lontananza sì. Va bene, dai, vi lascio, ci sentiamo dopo. Eia, ciao Claudio. Avanti Giulia. Ok, ciao Claudio. Alle prossime, dai. Sì, alla grande però veramente. Io sempre con 10 io, non di più, sempre con 10 qua. Va benissimo, non c'è problema. Ho parlato anche in DX, con Portogallo, sempre con la stessa potenza, nessun problema. Con Mike Gini serve a uno, per cui va bene così. Alla grande. Avanti. Antonio, ci sei? E a Luglia. Ora che ci sono. Questa zona sembra così, ma io comunque sono tappato per usino. Sono aperto per la zona del fianco, perché altro, Monte Bianchino, eccetera, eccetera. Sono lì, sono aperto. Poi usino proprio. È morto per me. Fu stato via di Zedù e l'avrei massacrato a Claudio, lì dove abitavo prima, non lì proprio in quel palazzo, ma di fronte, dove c'era Roberto, quello che lavora in banca, lì l'avevo ammazzato, sette piani, quel palazzo. Cazzo, mi sono lavorato con la Superleggi, con la Firenze 2, quella caricata, l'unica che c'era a Sassari. L'unica che avevo venuto a Sassari, ma bella, veramente bella, piccolina. Qua c'era 4 radiali, alta neanche un metro, tutta caricata con lo stilo, mi sono lavorato come voleva con lo BV 131. Ok, Antone, 9.5 tu mi stai arrivando in questo momento, Antone, modulati 9.7, una cosa così, va bene, lo so, è la posizione importante, si sa, poi da te sa ancora meglio, è ovvio, quando uno ha tutto davanti libero va benissimo, ma nonostante tutto che Claudio si è allontanato molto dal centro, diciamo, dove 10 chilometri, ma nonostante tutto arriva, è una meraviglia, a bomba. Proprio la radio non si discute, già lo sappiamo, non ne parliamo nemmeno, perché la radio è sempre unica. Poi come segnale, non lo so, scusa se pochettino, 9-10, guarda che tra me e lui ci saranno non meno proprio, di più sì, ma di meno no, almeno 15 km, minimo. Per cui vedi bene che a quel punto il segnale è fortissimo, alla grande, veramente. Quello sì. È un segnale, arriva bene, non è che non arrivi bene. Io quando parlavo da campagna via le Palottone con la Super Regibus arrivava fortissimo in tutti i posti. Tu immaginati, il centro storico lo beccavo in pieno, compreso anche la zona di... L'unico punto debole era il centro storico e come si chiama? Lì al Magistero, lì era 9.20, 9.30 il segnale, proprio il canale di via Roma in pieno prendevo, capito? Poi vabbè, poi la linea è trasferita, eccetera, eccetera, in conseguito le manovre, quindi le cose erano cambiate. Avanti il break. Buonasera. Beh, Gianni Gagamella, come stai? Penso così, dai, non tanto bene, ma già mi stanno riprendendo, ma... Che cosa c'hai già? Ho trovato una infezione al piede. Corra! Beh, i denti avessi a posto? No, devo andare alle 7. Io sono quasi, ci sono quasi arrivato. È meglio così. No, alle 7 mi ha trovato qua. Semplicemente tutto apposta. Buonasera, ok, ciao Gianni, ben entrato. Vabbè, tutto a posto già, sì? A posto, piano ci riprendiamo, dai. Ho avuto la protezione al piede, ho detto, comunque, non riuscivo a cambiare che me ne scappa. Mi si è riaperta quella luce, deve essere col caldo, che cosa? Si è spaccata, era chiusa. Si è rispaccata e abbiamo fatto qualcosa per infezione. Stavano 10 proprio a risolvere questo problema del piede. Cazzo, già ti è costata la volta una passeggiatina col cane. Madonna di che zero. Non è possibile. Ma comunque. Vabbè, e il vaccino fatto l'hai già? Sì, il vaccino io dal 14 ho fatto il secondo. Tutti e due li ho fatti. Ah, anche il secondo è fatto, no, io il secondo lo devo fare il 3 di luglio, il giorno 3 luglio, l'ho fatto la settimana scorsa, l'ho fatto di mercoledì, io l'avevo fatto esattamente, sì, mercoledì scorso, per cui una settimana domani, dai, siamo lì, ok, va bene, dai, meglio così, almeno sei più tranquillo. Avanti Luca. Già, ne abbiamo un po' tutti. Il primo vaccino lo faccio il 2, cioè domani mattina, dai. Interessante che si faccia, perché se riusciamo a sconfiggere, adesso dice che la zona di Arizzo ci sono stati dei casi di nuovo. Vabbè, però piano, là. Però piano si fanno le cose, già. Un casino, io dovrò aspettare lo stesso per quanto riguarda tutto il lavoro che devo fare. Cioè, devo avere pazienza, mi ha detto. Certo che ci vuole pazienza. Pazienza e fiducia soprattutto, Luca, no? Non c'è problema. Non ti disperare mai, perché è molto importante. Il morale è molto importante, Luca. Sono telefoni vecchi, e tu dovresti comprare un secondo telefono. Ma io avevo un Samsung Galaxy A10, nuovo di pacca, l'ho venduto l'altro giorno, 80 euro, nuovo, 32 giga, andava benino, un bel telefono. Allora interessava prenderne uno, secondo me che perché cerchiamo di non esigere il tempo quando comprassi. Ticket. Vabbè, avanti, buon po'. Che c'era Claudio. No, Claudio sta cucinando la pedisvella. Ah, così, da quanto stanno arrivando forte di propagazioni oggi? Sentito questo già? Ah, sta scusando la Sardegna. fa vedere in arabo? Sono spagnoli. Lo so che sono spagnoli, ma magari, siccome anche in Spagna, la Spagna è come la Sardegna, a seconda del luogo dove stanno, hanno un dialetto diverso, non è quello chiarissimo proprio, se è così. Io lo so perché me lo diceva sempre Emanuele, che ci sono, ma è come la Sardegna, uno se parla il sardo per dire sto a Sennori, non è, è diverso da quello che parlano ad esempio in Barbagia, tanto per fare un esempio, no? Già lo so anch'io. Lo so anch'io quello. Gli aveva votato gli accenti in Sardegna, quello della Gallura cambia totalmente da quello che c'è a Sassari, quello che c'è a Sassari cambia totalmente da quello che c'è a Nuoro, quello che c'è a Nuoro cambia totalmente quello che c'è dalla parte di Cagliari, è tutto un casino. Vabbè, comunque l'importante è che ci capiamo, io me lo italiano qualche volta. Andava. Questo, aveva sopra attaccato. Ah, ma che microfono stai usando? Io? Sì. Aspetta che stacco. Quello che c'hai tu, l'M93. Esce a forte, ma la capsula è cambiata. No, non è che toccata la capsula. Dovrei cambiargliela, la verità, cioè c'è un'intesa di cambiarla. No, non l'ho mai toccato. Ce l'ho normale. L'ho comprato neanche un mese fa il microfono. Poi ho preso le MB4, quello l'ho toccato. Gli ho cambiato la capsula l'ho agganciato all'FM500S, perché c'è l'attacco della midra, lo sai, non ho cambiato nessun tipo di cosa, l'ho lasciato così e vaffanculo. Ma questo è attaccato al 3009, è l'unico che esce forte, cioè il 3009, quando è 4000, c'ha una bella modulazione in uscita, capito? Esce forte per quello. E infatti non è per cambiare, sta andando un bel po'. Avanti, Luca, il 3009 ha stavo parlando di mira e le ambulanze, sono incendiato ieri notte un furgone per disabili, sempre lì alla Tedolcia, allucinante. E anche l'ambulanza su questo sabato è incendiato? No, quello che c'è via via Kennedy. Anche se ha servito il corso, abbiamo incendiato l'ambulanza nuova. Infatti stavo facendo... Sono già arrivati a 6.000 euro, stavo donando dei soldi per comprarla nuova, 85.000 euro costa. Non lo so, stavo facendo un po' di riavviamento, lo so perché anche io avevo comprata nuova e costava così. C'è un po' di riavviamento, quella che non fa quanto accessoriata, c'è anche il top, e quindi normale che costa, c'è di fibrillatori, c'è tutto qua. Tu pensa, questo furgone qua è venuto ieri un amico, Giuseppe Paloppoli, no? Per vedere come stanno sistemando un po' dei giardinetti qua a Santa Maria di Pisa e poi dei lavoretti da fare tramite il comune. Grazie a Dio ti verranno incendiati, porca palestra. Non si può incendiare un'ambulanza, no, non ho parole, la gente sta facendo di testa veramente qua. Il giorno che veramente trovano qualcuno che fa male, danno qualche macchina, ce lo buttano dentro la macchina, a pigliare fuoco un po' la macchina. Poi della guasa ha fatto che bisogna anche un via, è un suo parente. Però purtroppo lì ci sono molti tossici, magari è qualche tossico che sta facendo queste cose, tossici. Quello adesso che sto usando il Saverta, meglio di quello di poco fa, del 93, Gianni. Ah, sono tutti due belli, ma il Saverta è forte lo stesso. Questo è il Saverta, il microfono alla tavola, vedi. Il 93 l'ho comprato più che altro per il coso, per le... il 2009 di Giovanna, perché non c'avevo un microfono più, cazzo. Per tutti i lati, microfoni, baracchini, eccetera, eccetera. Adesso mi devo comprare lo spinotto, domani, perché sono trasferito di dietro, per queste baracchine qua. È rimasto solo quello del 2009, c'era con le 4000 e basta. Ok, questo è comunque il Saverta, microfono da tabloidi, da tavolo. Benissimo, riprendi Giulio che cambia parità. Ok, tornando a quel discorso delle ambulanze, la vita. Ma dimmi tu se sono cose da fare questi vergognosi ragazzi. Magari saranno loro i primi ad averne bisogno di certi interventi con quelle macchine lì. Incredibile già, cosa ci vuoi fare? Cosa gli vuoi fare un elemento del genere? Sono come minimo è da manicomio, non c'è niente da dire. Questo è sicuramente scontato. Ma vabbè, comunque. Avanti Luca. Non si fanno queste cose, è inutile che la gente fa, perché poi il giorno che trovo lo trovo veramente, sia chi sia, non ha importanza, ce lo butta dentro mi, ce lo butta dentro. Guarda che è una cosa veramente vergognosa, che un essere umano, se così lo vogliamo considerare, una persona del genere, che vada a fare certe azioni così assurde, ma non è possibile, guarda, veramente non è possibile. Siamo in un mondo di pazzi tante volte. Noi generalizziamo, però si sa, i delinquenti si conoscono, sanno chi sono anche, nonostante tutto, capita, non li fanno, non le fanno niente. Vedi quel delinquente che ha fatto quella strage famosa che aveva ucciso una marea di persone. Dopo 25 anni l'hanno tolto libero adesso. Adesso quello continua a fare il delinquente. Una cosa incredibile, capita. Questi malvagi d'Italia. Vai Gianni. Perché non sono puniti, capito? Non sono puniti bene. Se mai sono puniti bene, via. Carità, ma non ho parole. Avanti, buon po'. Cosa non dico? Dico sono sbagliato stavolta a risponderti. Cosa dico la tavola premuto qua di cosa del 93? Che stavo cercando lo spinotto se ne sono riuscito, ma trovo quelli di computer. Madonna fammi lo spinotto per le... un'altra palazzina, invece non viene. Vabbè, me lo prendo da fusare, cioè da fusare. Dopo vado a fusare lo prendo. Così almeno sono tranquillo. E purtroppo è così, adesso siamo abbiato il vizio di mettere fuoco alle macchine, come a Cagliari, c'era un periodo mettevano a fuoco alle macchine tutti i giorni, e così stiamo facendo la stessa, più che altro per divertimento lo fanno, mi capito, così vedono i pompieri, e capito il dire dell'adrenalina, dice, ah, ti ho messo fuoco alla macchina, all'ambulanza, poi alla macchina, così almeno, e poi te lo trovi di fronte, te lo trovi che guarda l'incendio, cazzo, come lo spengo, cazzo, più o meno. E la gente purtroppo è così, sta scendendo, non sa cosa fare, con Covid, capito, prende un po' di benzina, c'è la spazio sopra la macchina e piglia del Nanta. Lesci. Chi è? Questo qui è 3009 con l'M93, come va? Perfetto. È perfetto. Caraga, adesso facciamo girare un po' questo qui, che sono da molto che non lo faccio girare. Adesso è bene, non vogliamo. Volevo pensare in macchina poco più dopo, capito? Invece non c'ho spinotto, vabbè, cioè se lo... Ti metto omologato, mi metto il 2340. Tanto per usarlo, l'ho comprato, ho pagato quasi 70 euro, cazzo, almeno a usarlo una bella lavoro in macchina con la taccocina dei sigari. Dopo adesso in macchina faccio il giro con Giovanna. Me lo utilizzo, tanto c'ho la magnetica. Me lo provo. Ma infatti anche io l'ho messo in macchina, però poi non lo stavo usando, quindi l'ho tolto. Ma ce l'ho sempre, c'ho sempre la staffa da stare. Ascolta lì, tu non è che c'hai di quei blocca staffa, quelli come chiamavi, quelli pomelli per bloccare la staffa di quelli larghi, di quelli per il 3009, per il 3009, di quelli più grossi del 3009. No, non ne ho di quei pomelli, già che ti ho capito, no, c'ho quelli fini, c'ho la staffa con i pomelli fini io, che mi era stata regalata, ce l'ho qua, ce l'ho, però sono fini, c'hanno la, cosa fine, c'hanno quelli inutili, che te lo dia, staffa del 2009 ne ho solamente una, l'altra staffa del 2009 l'avevo data a coso, come si dice? Antonio Bombolo, con quel barattino che gli ho dato io, ho dato la staffa e l'attacco per l'alimentazione. Dai, vabbè, io li ho tirati da internet, quelli grossi. corsi, quando sono arrivati erano 12 euro. Gli ordinati invece mi sono arrivati molto più lunghi e sarà due volte di più, sono più lunghi di quelli che devono essere. No, così rischi il cazzo di toccare qualche condensatore perché lì siete ma stai scherzando. Tagliali con la mola, gli fai un taglio col segreto, gli fai un taglio, gli fai e capito, e poi gli spussi appena appena, però no, così lunghi no, non vanno bene, capito? Assolutamente. Quindi dal FM500 dovrebbe andare bene, vedi? Che buschi tu di quelli. FM500S, so che la staffa è più piccola, già lo sai. Invece ora il terminale è molto più larga. No, la staffa ce l'ho, non è la staffa, cioè, mi prometti che sono uno diverso dall'altro, siccome l'apparecchio è nuovo, lo avevo messo tutti insieme, io sono un bignolo. Se li trovavo tutti e quattro uguali, li mettevo tutti e quattro uguali, no, capito? E come segnale, come sto arrivando lì? Va bene il segnale? Sì, quasi 9:20, a Puglia. Cavagava, dai. E già va bene allora. Sto facendo con colui adesso, questo qui l'ho comprato nuovo, se l'ho usato due volte è troppo, ma giù blu più adesso c'è il Ruisi, c'ho il Cobra, insomma ne ho, poi non li stavo usando perché non stavo entrando quasi nulla, che non stavo bene, vabbè da. Luca ci ha abbandonato e magari si è sentato 5 minuti. Comunque non sarà uguale al mio, io non mi piaceva col coso giallo, gli ho fatto tutto nero, tutto il cursore, la parte di dietro, tutto nero gli ho fatto diventare. Adesso è bello, prima ci avevamo giocato. Ma cos'è, come dire? No, il microfono, è presente che c'è il cursore giallo, la parte di dietro gialla, li ho fatti tutto nero io, li ho verniciati, li ho fatti bene, non si vede nemmeno. Ah no, io l'ho lasciato così com'è, c'è anche la scatola addirittura, col coso, l'apparato del 28 euro, il microfono. L'unica cosa che ho pagato di più è il coso, il MB più 4, 67 euro l'ha fatto pagare. E gli ho venduto 4-5 di quei microfoni lì. Il primo l'ho pagato 40 euro, poi l'altro l'ho pagato 50 qualche cosa, adesso 67. Quindi figurati tu. Adesso me lo tengo il microfono, intanto ne ho venduto già 4, intanto cazzo come c'è bene con il microfono, bello, nuovo, c'è la scatola, c'è tutto, dammelo, va, ti do quello, vabbè, portatelo via e facciamo. E io non me ne vado senza microfono, capito? Senza microfono a tavolo. No, l'ho fatto, cioè l'ho agganciato all'FM500S e esce benissimo. La bomba, Non sembra manco lui, gli ho cambiato la capsula, l'ho cambiato, esce perfetto. KK, e poi l'FM500S usciva bene, io ce l'avevo in macchina, me lo ricordo, poi me l'avevano rubato a me. Non so mai, non ho mai capito chi era, hanno aspettato che me ne andassi a casa e me l'hanno fregato. E vabbè, comunque ci va bene, io ce l'avevo, lo sai con che cosa, con quei microfoni della Intec che c'erano la grata di metallo, lo sai che ci avevo. Ah, quello con la batteria era 1,5, già ho capito. Di quelli non ci sono più in giro, di quei microfoni. L'altro giorno ho visto su Facebook, un tipo stava vendendo due M300, più altra roba, 60 euro, ma dei baracchini mi sembra che c'erano in mezzo, nel mercatino delle armature. Quelli erano belli, gli M300 la prendevo al volo, nuovi, visto che erano. Solo che io a spendere soldi non lo spendo più, cazzo ce la faccio a spendere soldi cazzo per i microfoni, cose del genere, no? Basta, giovedì due. Meglio la bistecca però lì. Poi che gli ha regalato. È meglio la bistecca sì, Alfa del 9. Ragazzi, come il bici sta arrivando qua, capiresti? Meglio la bistecca, salsiccione. Intanto mi col Covid bisogna fare per forza così, stasera a casa a mangiare, ingrassare e divertirsi. Fatto uscire fuori, è un casino. Adesso siamo liberi, quanto dura? Facciamo fino alla scommessa fino a settembre o fino a agosto? Tanto per la discoteca lì. rivedeva la scena, cazzo, facciamo una pillicca come prima. Facciamo il dottor Novicchia, lo facciamo. Già basta, ho fatto un vaccino, adesso devo fare il secondo del 26. Ma non ho mai sofferto così per tanti anni per quel vaccino. Per carità. Dolori di colpo alla gamba, tipo sciatica, poi le braccia, poi cominciava le mani a tipo attritte, capito? Ah, fanculo, la prossima volta, quando faccio richiamo non faccio per niente, se non te lo caduto il pezzo, se dobbiamo trattare, trattiamo, lo spendo uno, faccio provare, col Covid, paga lo Stato e non paga un cazzo. Attaccato sia lì. E io sono attaccato adesso. No, allora dico no. Ah, perché sentivo la radio che non era chiara, chiara. Io non si capisco che apri. Sono attaccato perché c'è contaminazione, non è vinto, cioè, il colpo. Ha chiamato in bassa. A me basta, io via. Ecco, grave, rapido. Non senti. Già arriva bene questo, ma non arrivo io a questo qui. Abrirlo y después cerrarlo. La goma, tenme cuidado de no pasar. Attento España, escucha Italia, por favor. Attento, mi hermano de la España, de Vascuciana, Sardinia. Sì, ti ascolto amico. Buonasera mio hermano, l'operatore Gianni Delta Romeo della città di Sassari Nord, Sardini, Italia. Vamos a ver, Gianni, ti va studiando qua Francisco da Viale Sicilia Cambio. Angulo. Amico, ascolta qui con la Spagna, avanti Salvigna, Farvigna, mica dice, no? Ah, Brittella. Hai Luca. Hai. Bene, bene. Anche a mio amico. Dimmi tanti, no, io dietro una roba di cosa. Anche se non è il massimo, però. Sì, allora sì. Ehi, sotto casa, dai. E arrivi benissimo. E dopo la prova ho votato del facendo verso di Patamona, dai. Poi vai, se ti senti lo provo il viaggio. Sì, andate. Allora amico, vamos a ver se Vascuciano la Italia, adelante. Sicuramente. sempre come ho sudato, si è riaperta, perché sotto non c'è, non si forma più la canna, c'è solo il callo che la copre. Appunto, se si spacca il callo ricomincia a togliere il liquido, a fare. Poi si è arrivato. Adesso ho girato, sono al porto della cavalcavia, là, cavalcavia. Questi mi arrivano fortissimi, cari, a volte... ma ve li portate appresso. Oh già, allora... LCD originale, retro display, LCD originale, screen, più frame, più batteria originale, Huawei P10 Lite, 60 euro ti viene. Meno male, in audio avrà anche un po' di più la batteria adesso. Sì, 60 euro. Adesso lo chiamo Marco, glielo dico. Se me lo dà, me lo aggiusto. Franco, adesso bene mi sento. Sì, sì, io sono in movimento, sono in viale Porto Torres, ti ascolto sempre bene. Sotto qua arriva un bel foto, a me sicuramente mi ascolti bene in viale Porto Torres. Sì, sì, ripeto, segnale non lo vedo perché ho, diciamo, l'apparato ce l'ho sotto il gomito, puntato in avanti, dai, verso il vetro. Sì, direzione Plattamona. Circa, dai, la zona di... come si chiama? Via De Martini, la zona lì. Ah, ok. Vabbè, dai, adesso cambio apparato, faccio girare anche l'altro, che è un po' fermo. Io sto adesso un attimino, chiamo la macchina, ti sentiamo fra 5 minuti, dai. Tu lo varre, però, non c'è certo che va, perché... Malo, tuvo que pegar a patas a la tierra. Yo estaba hoy con cuatro cacharros, a mi disposición. Bájate, no tú te bajas, no tú te echas de peón. Como que llega, no llega ni la 6 y me he venido a tomar por culo. Estaba con el doble carro, llevando material, con el rulo, con el agua y la máquina, las malas, cargándome. Venga. Sí, ya. Y después de peón. Se rompe el malo esto, cua, se va un buen fuerte. No, nada, no le veo una puerta. Yo ya no voy a trabajar más hasta el mes que viene. Después viene el pobre. En el sobrecillo, en el bolsillo. Y el compañero acá mirándote diciendo que le habrán metido usted en el bolsillo. Exacto. Voy a una pila. A C7. Ho l'attenzione ai canali 10. Via 12, già lo potevo levare, sì, è la metà di uno. Ehi, già, io ci sono, ma è che sono di un bel forse, vabbè, non ti copre a te. Intermedio, E come fa a coprire? Ma un fiato le palline. Dietro, a te là, dietro. Cava, con questo come sta andando, Luca? Benissimo. Questo è quello delle luci blu. Mio, sì. Bene, ti sto arrivando io, sì? Sì, io. Andava, da. Va bene. Come dovrai me da quando tu tocca algo? Cava. Adesso provo a vedere se riesco a telefonare Marco con quel capazzo fuori di telefono che c'ho. Babba via, per carità. E poi ne vende otto nuovo. Hai fatto roba al tuo figlio figlio, sto là. La mia deve essere visuale, poi originale. Tu pensa che non originale costava quella cifra lì, senza batteria. Aspetta che provo a chiamare. Infatti dire che se è nero già. E se lo devi comprare anche copri batterie nero. Luca, attenzione Lucrezia. Mia. Allora, mi stava dicendo che è bianco, quindi bisogna ordinare anche il pezzo della batteria, così. No, aspetta. La sotto lo fai nero già, che se ne frega. Ah, per decerlo io, qui. È brutto. Qui vuole, quando è smontato, vuole fatto, se no è brutto tutto. Come, scusa? E vuole fatto quando, coperchio vuole fatto quando è smontato, se no esce male. C'è anche il bianco comunque originale, un pezzo di batteria. Ordinamelo allora, adesso quando Marco Manodà lo facciamo. No, già, tu adesso fatelo, come si dice, fatelo dare, così io me lo preparo. Vabbè, dai, lo faccio dare. Adesso in palestra, Marco, capito? Ha ripreso in palestra. Stava detto che era in palestra, non mi poteva parlare molto. Vabbè, comunque già ci arrangiamo. Domani mattina lo chiamo, me lo faccio dare. E così tu lo prepari, lo fai. Perché comprare un altro telefono per cui averne due, cosa me ne porto? Cioè, lui voleva che io comprassi un telefono, gli uscita adesso che costa 300 e basta euro, si paga 10 euro al mese per 30 mesi, ma stiamo scherzando, 300 io. E lui mi dava il suo, quello che c'ha, Huawei, quello che avevo io prima. Però non va bene, dai, cioè, no, Marco, lascia, non voglio spendere molti soldi. Vabbè, comunque c'è anche la batteria nuova, originale, tutto. Sì. Quando vuoi già non c'è problema, me lo porti così, me lo preparo e poi e sempre contro quanto c'è la carta. Vabbè, se no te li do io subito, non c'è problema. Eccomi, Gianni. Oh, avanti, fra. Sì, ho ripreso il movimento, sono Lucida di Sassari da... all'ultimo rifornitore, dai. Poi intanto entro e vi chiedo un po' come mi ascoltate. Un momento, benissimo. Com'è il segnale? È sempre a palla, no? È 9.20, 9.25, sì. Ah, e poi mi sembra rende meglio su questa macchina che sulla vecchia che avevo. A parità di posizione, boh. Sì, che antenna c'è? Cos'è? Boh, un'antenna da un metro e... in acciaio, 1,60 m. Ma della Midland? Mi stai prendendo in... forse della Sirio. Poi è la tipica antenna un po' caricata sotto la base con la bobina e lo si lascia, l'ho allungato un po' perché l'avevo tagliata qualche anno fa per portarla in frequenza e invece su questa macchina l'ho dovuta allungare, quindi l'ultimo pezzo è diciamo rattoppata, aggiunta. Ho capito, per buscare uno stilo e fare la misura. Vediamo, finché se va bene così la lascio così, gli ho messo poi sopra un po' di... come si chiama? Di termorestringente. Ho capito. Vabbè, l'hai unita, dai. Avanti, cucca. Sì, fra, arrivi benissimo, dove sei? Sono al centro azzurro, sono di fronte alla città mercato, vabbè, qua siamo vicini, dai. Sono scala, quante giorni mi arrivi, dai? Vabbè, per adesso però non c'è nulla.